capitano Balandrano, di Balandrano, di casa Balandrana. Onor vedona l'orso d'urlindona, pronto di lingua sol e più di mano. Rintutto, affaccio, famiglio, repasso, di tai e punta me ne vado pronto. La gente si ritira quando posso, si chiede riposo, che son solo il mondo. Onde mie brame a voi ne ho fatto note. La figlia sì, ma per baciar la dote. Cento battaglie e cento re salvati, nella valigia chiusi ed elencati. Cento duelli e cento tornei. E butto qui potesse parlar lei. Quanto i nemici e non li conti in fila, fai di colpa la spada che li infila. A stragi in serie ammazza per me a volo, la listelli più grande d'un lenzuolo. A te tu, tale capito sei. Ma il resto vi dirò, venite meco a udir l'altre balazze. Fiosa! L'eco. Vuota al manco pancia pia.